Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Non che io abbia una memoria storica illimitata, però mi ricordo che c'è un tema che c'è una grande difficoltà a rappresentarlo, anche se in fondo fa parte delle epiche nere del nostro paese. Ogni paese ha un suo racconto epico, molte volte legato anche a episodi vergognosi, disturbanti, destabilizzanti. Quando questi episodi poi si perdono nel passato più remoto, uno può raccontarla e affidarla al racconto romanzato del cinema, della fiction televisiva, riprenderla e rifare, riallacciare dei fili su lacune storiche o reinterpretazioni della storia. Questo un po' sta accadendo in questi giorni con il Risorgimento italiano, ne abbiamo parlato, spesse volte l'abbiamo già citato, argomento già da noi trattato, c'è una sorta di rivalutazione in chiave appunto romanzesca e epica del nostro Risorgimento, un po' perché ne eravamo stati profondamente afflitti dall'overdose di retorica noi della generazione degli anni 50. Non ne potevamo più di bandierine, di garibaldini, di figli della patria. Poi c'è stato un periodo fortemente legato all'ideologia che considerava tutta questa retorica come appartenente a un mondo retrogrado, a un mondo reazionario, qualcosa che comunque era vergognoso rievocare. Poi col passare degli anni la cortina dell'oblio ha quietato le coscienze, ha ammansito gli animi, è riuscita in qualche maniera a riportare fuori quegli aspetti più spettacolari, più poetici, più romanzeschi legati anche agli eroi del Risorgimento. Ne parlammo appunto, ricordo qualche un paio di settimane fa, ritornando fuori appunto con questa idea della generazione della gioventù ribelle. Grandi fulgidi disinteressati, ricchissimi, fortunatissimi nella vita, eroi che immolavano la vita per un'idea che è un'utopia totale, bellissima, fantastica, meravigliosa, totalmente folle come quella dell'Unità d'Italia. Questa mattina invece vorrei fare un passo avanti, vorrei parlare di qualcosa di cui ancora non si riesce a parlare con tranquillità, non perché semplicemente si tratta di un fenomeno che ancora interessa la nostra attualità in maniera cocente, in tutte le sue manifestazioni, in tutte le sue mutazioni. Questa è la mafia. In Italia non si è mai riuscita a rappresentare con serenità la mafia nel racconto parallelo che si fa della realtà storica, della cronaca e via dicendo. Tutte volte che qualcuno lo ha fatto è sempre stato accusato di un'azione destabilizzante nei confronti del paese. Io ricordo questa polemica ci fu già ai tempi del ciclo televisivo della Piovra. Meraviglioso film che appassionò noi, una delle cose più importanti che ha fatto la televisione italiana negli anni, esportato in tutto il mondo, però anche lì ci furono vibratissime, potentissime proteste a livello istituzionale, perché che immagine diamo del nostro paese? Siamo masochisti, vogliamo far credere che tutto sia mafia. Andando avanti nel tempo vedo che non si è attenuato questo sorta di tabù, di indicibile, di irraccontabile. Ora che mafia, camorra, 'ndrangheta, malavita organizzata in generale sia un fenomeno endemico del nostro paese che attraversa la nostra penisola, dalle Alpi alle piramidi, isole comprese, su questo non ci piove, tutti lo sanno e comunque in ogni luogo si può manifestare comunque un focolaio, un legame di questa nostra particolarissima peculiarità, ma che ci sia una così profonda e difficile possibilità di rappresentarlo non sono molto d'accordo. Ieri abbiamo assistito in televisione all'ennesima rettifica, sull'ennesima accusa, ancora una volta è irrappresentabile questo fenomeno. Beh, noi questa mattina vogliamo capire come attraverso gli anni, in realtà, in forma molte volte non così plateale, senza aver creato delle polemiche così aspre, senza che diventi argomento quotidiano nelle pagine dei giornali, il fenomeno mafioso, che fa parte comunque della nostra storia patria, degli aspetti dolorosi, problematici, indicibili della nostra realtà, sia stato affrontato dal cinema italiano. Voi tutti, uomini e donne, che vi siete lasciati avvilire dalla paura anche quando si trattava di scoprire e punire gli assassini dei vostri figli, che avete tentato di sopraffare la legge persino quando difendeva i vostri interessi. Avete ammazzato Paolino perché mi avete tutti impedito di amministrare giustizia e di imporre il rispetto della legge. Certo, solo uno di voi ha materialmente sparato al ragazzo. Uno che forse mi sta ascoltando e che non riuscirò a giudicare e a punire perché è protetto dalla vostra paura. Voi, uomini della mafia. E tu, Massaro Passalacqua. Tu che a tuo modo sei un saggio e un giusto. Anche tu hai preferito la tua legge sanguinaria e feroce che condanna chi ti fa sgarbo e protegge chi esegue le tue condanne alla legge. Alla sola legge che ci permette di vivere vicini senza scannarci come bestie feroci. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Sansonna, come ogni settimana è accanto a noi, a cercare di capire quanto il racconto a volte sommesso della nostra storia, della nostra cronaca nazionale, abbia comunque lasciato dei segni che vale la pena di analizzare. Ora noi pensiamo, immaginiamo che il racconto, la fiction sulla mafia sia qualcosa che appartenga a un passato piuttosto recente, dagli anni Ottanta, appunto, dalla Pirova che ho citato io. Prima sembra quasi che non se ne parlasse. Eppure Il nome della legge è un film del 1948. È un film che parla, anche se in maniera piuttosto irreale, ne parla come si potrebbe parlare di un'epopea lontana, di un far west che più non appartiene al nostro paese. Il 48 sono gli anni in cui l'Italia si stava lentamente incamminando verso quello che era il mondo moderno, da un punto di vista istituzionale, la ricostruzione e via dicendo. E questo film, tratto da un romanzo, La piccola pretura, del magistrato Giuseppe Guido Lo Schiavo, che ha vinto anche 3 Nastri d'Argento, come film, un film di Pietro Germi, che parla appunto di mafia. Ma come ne parla, Sansone? La immerge in una Sicilia schiacciata dal sole, una Sicilia western in cui Massimo Girotti, il giovane magistrato Calos Cariagazzos, bello e buono, che arriva solido, molto come viscontiano, come in ossessione, insomma, questa figura pura che viene calata in questo western assolato, siamo nel 48, è l'iniziatore del genere dei mafia movie, il primo in assoluto, e i mafiosi sono visti come degli apache, una sorta di apache, c'è questa inquadratura in campo lungo in cui sconfinano da questa collina e si sente questa voce: ecco, stanno arrivando i mafiosi. Parlano l'italiano perfetto, citano Aristotele, dicono che ogni ordinamento ha i suoi difetti, quindi è una visione mitica, un po' irreale, che però comincia a guardare questo universo cristallizzato, ancora tutto da decifrare, che è quello di questa Sicilia mitica. È l'iniziatore, appunto, è un film originario. Diciamo, se era usciti da poco dall'epoca della grande indicibilità di tutto ciò che fosse problematico, non credo se ne potesse parlare prima, appunto, della ricostruzione del nostro paese. Di figure, cioè il primo dopoguerra, figure emblematiche, cariche di mistero come Salvatore Giuliano, che andavano a toccare, insomma, gangli indicibili del nostro paese, della collusione anche con l'America. Quindi, sì, diciamo, viviamo in pieno piano Marshall, quindi c'era l'idea, appunto, dei liberatori, comunque erano anche in quel momento i foraggiatori, quindi c'erano grossi flussi di denaro e di risorse economiche che passano per il nostro paese, e chiaramente, come sempre accade, questo aumentava molto gli appetiti. Era più semplice incasellarli nel genere western, questi mafiosi, insomma, recuperare quel ritmo, quella dinamicità di genere che Germi aveva in sé, e cominciare a dire, a osservare questo fenomeno che ancora non era stato indagato. Insomma, questo era proprio l'inizio. Ancora si era ben lontani da quella che è la polemica degli ultimi giorni, la mafia come una realtà ormai deprivata di tutti gli aspetti folcloristici, arcaici, di onorata società, ma qualcosa di molto snello e molto moderno, che può attraversare qualsiasi struttura come se fossero trasparenti, qualsiasi persona, qualsiasi luogo. Oggi la mafia di colletti bianchi, che appunto sono disseminati nel sociale, che non hanno più nessuna miticizzazione possibile attraverso il cinema, insomma, sono pura classe media, se vogliamo. Che era l'anticipazione felice del personaggio di Tano Cariddi, interpretato da Remo Girone, nella Piova. Quello veramente dette fastidio, perché Remo Girone somigliava troppo a un politico democristiano, era uguale, con la sua redingote nera, i capelli lisci all'indietro, la camminata un po' curva. Non erano tanto le mitragliate fra mafiosi e poliziotti, davano fastidio. Da fastidio l'anticipazione, questa idea di scomparsa degli aspetti mitici, folcloristici, da far west, appunto. Anche Gioia, un altro politico democristiano, si riconobbe in un altro film di Fernando Di Leo, Il Boss, e che ho problemi, cioè si autodenunciò con Coda di Paglia, cioè, ma quello sono io, ma noi non l'avevamo detto, cioè, lui si pose appunto fra i personaggi del film. film. Allora, 800240024. Voi che seguite con attenzione il filo del rimpiattino fra istituzioni e veementi posizioni critiche alle istituzioni, sempre sul tema della mafiosità o meno di alcune aree del nostro paese, questa mattina avete un'occasione di parlare, ricordare con noi come quando la televisione non aveva questa centralità, il cinema raccontasse questo fenomeno. 800240024. Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i quacquaraquà, il branco di oche. Ma lei, anche se mi inchioda, è un uomo. Perché mi considera un uomo? Perché dal posto dove sta lei è facile calpestare la gente, da persone che erano al suo posto. In altri tempi ho ricevuto offese peggiori della morte. Anche la colonna sonora immediatamente riporta questo film, che ha una sua attualità e una sua illustre discendenza. Il giorno della civetta, il film di Damiano Damiani, con appunto Claudio Cardinale e Franco Nero, è un film che penso è entrato abbastanza nell'immaginario di tutti, che si farà appunto a ciò che scrisse Leonardo Sciascia. Un film ambientato negli anni 60, questa è una delle frasi più famose, la suddivisione della società secondo il mafioso. Sì, questo film narra appunto la contrapposizione di Bellodi, che è anche lui un altro Kalosca e Gazzos, bello, ceruleo, Franco Nero, che arriva dal nord, da Parma, dalla tranquilla e quieta Parma, arriva nella Sicilia più assolata, più feroce, e gli viene spacciato per delitto passionale un delitto che lui scoprirà essere di mafia, cioè il solito groviglio sciasciano in cui il tutore della legge si immerge e cerca di decifrare. Il colpevole è Don Mariano Arena, che è colluso con i poteri forti democristiani, e questo boss che è Lee Cobb, attore che già aveva interpretato in Fronte del Porto il mafioso, un mafioso archetipico che però alla fine degli anni 60 viene nel cinema di genere italiano, che era una sorta di cimitero degli elefanti di questi vecchi grandi attori del cinema hollywoodiano, e interpreta questo mafioso che ha tutta la sacralità, fa questo monologo appunto di suddivisione appunto platonica dell'umanità in diversi uomini, e riconosce in Bellodi un uomo, nel suo avversario un uomo. È una sorta di duello cerebrale, duello di potere, duello di carisma, che contrappone la giustizia e il potere mafioso. Ancora era ben delimitata e ben separata la peculiarità locale, l'aspetto geografico, l'aspetto proprio regionale. Non a caso chi si reca... la mafia si rappresentava e si manifestava nel luogo in cui storicamente, geograficamente era nata e si era espansa. Infatti il forestiero, tu hai citato appunto, che viene dall'Emilia Romagna, come si dice, da un altro paese, da un altro mondo. No, sulle figure e i caratteristiche hanno interpretato nella storia i mafiosi, viene da pensare al compianto Tiberio Murgia, che è morto proprio da qualche mese, che era sardo di Oristano, che dopo appunto il siciliano della Banda del Buco ha sempre dovuto, è stato costretto a interpretare il siciliano, non sempre propriamente mafioso, ma molto legato alla mafiosità come caratteristica genetica del suo essere. Sì, perché appunto per il cinema si quindi avevamo un siciliano tipico che non era mai stato siciliano in vita sua. Certo, e però era un cliché vivente, perché era bassino, ingelatinato, col baffetto, con questa pelle scura, era il perfetto picciotto. Infatti anche nella Ronata Società, un film ironico, geniale, di Riccardo Pazzaglia, dove sono Franco e Ciccio che fanno i due mafiosi, c'è Tiberio Murgia insieme, commenta una statua femminile, perché poi la femmina è anche l'ossessione di questi maschi in questi paesi del sud, in cui le donne guardano tutto da dietro le persiane e gli uomini stanno al bar, come in un contesto arabo, a guardarsi, a spiarsi, a osservarsi, a parlare di continuo, a suggere granite. Però ancora mi sembra siamo in una rappresentazione della mafia come quasi un fenomeno folcloristico, caratteriale, seppur fortemente criminoso, legato a un territorio, legato a un modo d'essere. Non c'è ancora questo stacco nella rappresentazione della contaminazione in altre realtà. Siamo in epoche ancora molto lontane, ma andiamo avanti. Hai saputo del povero Roche? Altro se l'ho saputo. Ma lo sai, quando vengo qua, mi pare di essere nel Texas, che so, a Dallas. Laura, a te lo posso dire. 2 settimane prima di morire, Roscio mi venne a trovare a Roma. A Roma? Sì, in Parlamento. E che voleva da te? A Roma? Il nostro povero è sfortunato, amico Roscio. Mi chiese se sono disposto a denunciare alla Camera, nei comizi, sui giornali, un notabile del vostro paese, che tiene in pugno la provincia, che ruba e entra all'Anzi. Un notabile? Uno che tiene in pugno la provincia? E che? Ma disse che mi faceva avere le prove e poi non si è fatto più vivo. Naturalmente, visto che quello era già morto. E tu? Tu non hai collegato i due fatti? 800 24 0024, stanno arrivando le prime telefonate dei primi ascoltatori. Qui siamo sempre in un film liberamente ispirato da un romanzo di Leonardo Sciascia. Sanson. A ciascuno il suo, di Elio Petri, con un protagonista, uno strepitoso volontario. Abbiamo appena ascoltato un dialogo fra lui e lo strepitoso Leopoldo Trieste, il grandissimo caratterista, che fa il deputato del PC, a cui Volonté Laurana, personaggio di Sciascia, va a confessare i suoi sospetti. E qui c'è questa figura sciasciana di questo professore, che in questo paesino non è il commissario Bellodi, non è una figura, un tutore della legge, ma è un professore di latino molto dinoccolato, legato al PC, una figura che forse anticiperà in passato, cioè l'intellettuale in un contesto siciliano che osserva la realtà e cerca di trovare una chiave etica per uscire dal vincolo omertoso. E quindi confessa i suoi sospetti a Leopoldo Trieste, e poi in realtà finirà stritolato in questo gorgo mafioso e non riuscirà a venirne fuori. Ecco, dal punto di vista proprio iconografico, ambientale, sì. Come è rappresentato qui il fenomeno? Il fenomeno mi piace anche l'aspetto proprio esteriore, fisico. Il fenomeno, come dicevamo prima, la regia di Petri fa degli forti zoom sui dettagli, anche per far entrare nella trama, c'è tutta una serie di dettagli. Per esempio c'è Volonté che capisce che le lettere anonime non sono mandate da semplici pastori analfabeti come quelli che sono i primi accusati del delitto in questione, ma c'è qualcuno dietro, c'è l'osservatore romano, perché dietro il ritaglio c'è unicuique sum, cioè l'intestazione dell'osservatore romano, quindi c'è un'osservazione da giallo dei dettagli, di tutta una serie di frammenti. E poi soprattutto il 7 è sempre questa piazza in cui appunto si suggono granite e i maschi parlano di continuo fra di loro, c'è questa eredità della Magna Grecia, del sofismo di Protagora e Gorgia nei siciliani, questo amore ossessivo per la parola che indaga, che continua a scavare e elude anche la verità allo stesso tempo. Questo è molto sciasciano. Abbiamo Attilio, 23 anni, da Palermo. Attilio, buongiorno. Buongiorno. Volevo, tanto complimenti per la trasmissione, volevo dire che comunque la cinematografia moderna, secondo me, a mio modo di vedere, tende a fare una rappresentazione molto allargata della mafia e del concetto di mafia. Io capisco che comunque la realtà cinematografica deve anche spettacolarizzare tutto. Devo dire che comunque bisogna saper distinguere ciò che è mafia e ciò che non è mafia, perché essere mafioso ha un suo significato ben preciso, sia per il mafioso che per il non mafioso. Ciò vuol dire che il non mafioso si potrebbe sentire anche offeso in una visione allargata del concetto. Ecco, vediamo di definirlo a questa linea. Mi interessa che ci aiuti in questa indagine un ragazzo giovane, un ascoltatore giovane e palermitano. In tutti i film di cui abbiamo finora trattato, noi stiamo facendo una sorta di retrospettiva. Sembra che soltanto oggi se ne parli o la si rappresenti, ma in realtà qualcuno ci ha sempre provato, non sempre riuscendoci, non sempre cogliendo il bersaglio in pieno. Lei dice, mi sembra di aver capito, che esiste una sorta di aspetto esteriore, un humus generalizzato che non necessariamente può definirsi totalmente colluso, ma comunque in cui allinea, attecchisce il messaggio, che però non ci tiene a stabilire una sorta di demarcazione fra chi vive questa realtà, ne è interprete, ne è consapevole portatore, e il fenomeno mafioso vero e proprio. Sì, esatto, anche perché diciamo che esiste anche, diciamo, per essere mafiosi bisogna essere, come dire, affiliati, bisogna fare un giuramento, bisogna avere tutta una categoria di valori criticabilissimi, ovviamente. Tuttavia dobbiamo dire che anche la mafia stessa è un'organizzazione che ha mutato la sua estetica e proprio il suo assetto ideale nel corso dei decenni. Cioè, sappiamo come la mafia nel primo Novecento era molto diversa da quella di oggi. Assolutamente, infatti il vero discrimine oggi è questo. Noi stiamo dando rappresentazioni arcaiche del fenomeno mafioso che hanno avuto una loro ragione storica, diciamo. Però era facile parlarne come qualcosa di alieno, di lontano, distaccato. Era facile parlarne quando la figura allucinata del mafioso era qualcosa di ben definito, totalmente diverso dalla maggior parte delle persone che andavano al cinema e lo guardavano. Beh, nello specifico, qui in A Ciascuno del Suo, la mafia è Gabriele Ferzetti, ovvero il notabile, rispettabile, quindi ha questa doppia figura, è il notabile del paese, però di cui si scopre gradatamente che ci sono forti vincoli poi col potere mafioso, quello arcaico, feroce. Il vero problema è quando c'è una impossibilità di definire l'aspetto concreto del mafioso, e chiunque potrebbe esserlo, anche il più sorridente e il più diversamente mafioso secondo l'iconografia tradizionale che noi possiamo incontrare. Ci fermiamo un istante per dare la linea all'informazione della borsa. 800 24 0024, il racconto della mafia nel nostro paese. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. E i vecchi amici, Ignazio Micichi. Parti. Ah, e Ciccio Laganà. E Micro. E Alfio Galì. In galera sta. E Cufu. Uomo d'onore. E Filò. Morì. Si traviò. Come sarebbe a dire si traviò? Si travi gli amici. Si detta la politica. Si comprò la moto e gira facendo il mestatore fra i baccianti, ma la nuova Iddo. E tutto a privedere, Nicola Scardaci, Iano Nicocia. Tutte sedute stanno e tu, figlio mio, anche se tu non meritaste, fortunato fosti. Non dimenticarlo mai. E chi l'ha dimenticato? Giustamente dopo mangiato, vado ad osseguire Don Vincenzo. Una commissione ci devo fare da parte di un'alta personalità della mia industria. 800 24 0024, non poteva mancare in questa nostra rievocazione del fenomeno mafioso visto attraverso il film, la commedia italiana, con tutti i suoi personaggi, le sue macchiette, anche gli aspetti grotteschi, come questo mafioso in un film non molto ricordato, leggo su Wikipedia, di Alberto Lattuada, in cui Alberto Sordi è il siciliano che va al nord, si prende una bella moglie giovane, bionda e esotica rispetto alla realtà ambientale. Una volta che ritorna al suo paesello e si mette la coppola, si troverà immediatamente rinvischiato in una storia di mafia. Sansonna. Sì, la storia della schizofrenia di Sordi, che tra l'altro è sublime nell'incarnare questo siciliano, pur essendo lui romanissimo, senza trasformarlo in macchietta. Quindi lui è calato nella realtà nordica, ritorna a casa ed è costretto a... Lui è inserito nel nord, questo è un tema molto caldo in questi giorni, lui è perfettamente inserito a Milano, a questo camice lindo e pinto, poi torna a casa e si mette la coppola in braccio alla lupara per andare a caccia ed è costretto poi a ricompensare il padrino che l'ha aiutato a trovare il posto nella fabbrica del nord e quindi viene spedito in America in questa sorta di cassa per avere un alibi. Durante la battuta di caccia lui verrà spedito in America in aereo e dovrà uccidere una ucciderà persona. Nel classico luogo di culto della mafia, ovvero il barbiere, il barbiere gli girerà la sua vittima a tiro, lui lo crivellerà di colpi per aver reimmesso nell'aereo, tornerà a casa e tornerà tranquillamente nella sua fabbrica nordica a dare ordini secchi a Milano, a assumere di nuovo, a rientrare nel personaggio del dirigente asettico milanese nordico. Quindi in teoria, se avessero mandato in televisione il film di Alberto Sordi, il mafioso, avrebbe fatto molto più male ed è stato molto più polemica di tre puntate di trasmissione televisiva Vieni via con me. Ma io su questo direi che anche Iacona, grande Iacona, di recente ha fatto, qualche mese fa, ha fatto una puntata strepitosa sull'Andrangheta, in cui raccontava questo interland milanese in cui fra le nebbie appunto meneghine affioravano questi ndranghetisti in questi bar trincerati, insomma, che gestivano fra ricatti, estorsioni, violenze, sì, cocaina. Riccardo Iacona, che secondo me è l'esito più felice di tutta la squadra di Michele Santoro, che in realtà è uno dei giornalisti che ha in mano la poesia del racconto, ha fatto davvero un reportage meraviglioso, fantastico, sulla trasformazione dei camorristi nel nord Italia, e nessuno si è scandalizzato, nessuno ha detto nulla. Eppure aggrediva le viscere di tutto raccontandola cinematograficamente. Era documentato, non era soltanto una chiacchiera o un racconto, era documentatissimo. No, c'erano proprio i protagonisti che parlavano, che chiaramente con la loro omertà, con le loro facce, poi c'erano queste donne di 'Ndrangheta che erano delle erinni, delle figure mitologiche, mostruose, insomma, vecchie, orrende, che denunciavano se stesse solo col viso. Probabilmente che non fa parte della squadra di autovittimismo, quindi non piange e fa il suo lavoro, e quindi Iacona lascia delle tracce. Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, Angelo. Lei a fine degli anni Ottanta è stato comandante della compagnia di Corleone. Esattamente, sì. Da giovanissimo capitano all'età di 28 anni passando da una realtà come metropolitana, come Roma, al cuore di Cosa Nostra. Lei di dov'è? Di origine di dov'è lei? Io sono pugliese, quindi in qualche modo ho anche respirato aria di sottocultura criminale. Quindi lei è andata dalla Puglia a via Barletta a fare il corso e poi è stato mandato Ho frequentato l'Accademia di Modena, ho cominciato la mia trafila di ufficiale. Ma lo dico perché vicino alla mia metropolitana vedo tutte le mattine i giovani carabinieri appena arrivati con le loro borse, per questo lo dico. Ah sì, sì, immagino via Aurelia, la zona di via Aurelia, immagino, sì. E quindi dicevo, per me è stato inizialmente proprio complesso capire le loro movenze, perché la caserma di Corleone dà su questa piazza principale con due bar di fronte che erano praticamente il luogo di ritrovo degli uomini più vicini all'epoca a Totorina e ai suoi nipoti che di fatto erano i reggenti della famiglia di Corleone, cioè i fratelli Grizzassi. Quindi lei osservava come un set cinematografico. E quindi ho passato letteralmente il primo mese della mia permanenza a Corleone ad osservarli da dietro le finestre e a fotografarli, perché dovevo assolutamente comprendere di tutto. Pronto? Sì, la so. Breaking news. Il Papa potrebbe andare presto a Mosca, questo perlomeno è l'auspicio di Benedetto XVI, lo rivela lo stesso pontefice nel suo libro intervista La luce del mondo, presentato in questi minuti in sala stampa vaticana. Dettagli nei prossimi giornali radio. Angelo, riprendiamo il suo racconto. Sì. Lei fotografava la piazza di Corleone, si faceva un suo archivio fotografico cercando di studiare. Sì, perché cercavo di interpretare prima di tutto questo modo diverso, per me era assolutamente una novità ovviamente, questo modo dimesso anche di essere, di questi che erano di fatto dei contadini, la mattina si svegliavano presto per andare nei campi e la sera alle 10 li si trovava a letto con le mani piene di calli. Anche gli stessi nipoti di Rina erano così. Mi ricordo. E Sansonna, devi dire qualcosa? Mi ricordo dal processo Rina che diceva, usando la terza persona involontaria, cioè io ero un semplice contadino, no? Poi ripreso dal divo di Sorrentino come amante dei pomodori, come esattamente come lo sta descrivendo lui. Ecco, lei quindi ha conosciuto questa realtà. Una cosa interessante, scusi se prego, prego. Cosa interessante da ricordare. E io infatti ho cominciato a comprendere da lì, poi ho fatto i miei giri anche in Calabria, quindi ho conosciuto anche l'Andrangheta eccetera, ma la cosa interessante secondo me è che avevo colto subito che ovviamente l'obiettivo primario della Cosa Nostra per eccellenza, che erano i corleonesi, non era ovviamente l'arricchimento, ma era il potere. Ed era il potere che si manifestava soprattutto attraverso il possedimento terriero. Tant'è vero che il primo investimento mafioso fatto da Rina fu la RISA S.P.A., dove RISA stava per Rina Salvatore, e dove nella compagine societaria c'erano in realtà una serie di professionisti palermitani, che tra cui Giuseppe Mandalari, personaggi che poi si sarebbero riemersi in diverse indagini. Lei fino a che anni si è occupato di questo fenomeno? Fosse un'azienda agricola. Primi anni 70. Lei fino a che anno ha tenuto l'osservatorio attento su questa realtà? Beh, diciamo che l'osservatorio, poi da un osservatorio fotografico, si è trasformato in un osservatorio audio, perché con Gianni Falcone avevamo piazzato le prime microspie, quindi il codice nuovo era appena entrato in vigore nel 89, le prime microspie a casa delle sorelle di Luca Bagarella, e per la prima volta sentivamo finalmente, oltre la voce dei pentiti, sentivamo per la prima volta parlare di Rina, di quello che fino a quel momento sembrava un fantasma. Ecco, cosa vi ha aperto di nuovo? Perché mi piace l'osservazione appunto dell'ufficiale e dei carabinieri che usa tutti gli strumenti tecnologici a sua disposizione. Abbiamo iniziato a parlare di film che rappresentano la mafia, ma lei mi sta raccontando di un documentario personale, professionale, per capire e sconfiggere appunto quello che era il suo avversario. Lei prima inizia... Le racconto un aneddoto simpatico a proposito. assolutamente inedito. Quando si trattò di piazzare le prime microspie, c'era un problema da superare, cioè come collocarle. E come andarcela a mettere, Allora lì c'è stata tutta un'attività informativa, quindi avevo immediatamente metabolizzato i metodi mafiosi, no? Partita tutta un'attività informativa con i due miei più affidabili appuntati sui tecnici dell'allora SIP che gravitavano nell'area, e si scoprì che uno di questi aveva un amante, moglie di un mafioso. Gli si diede un appuntamento rigorosamente a Palermo, per stare lontano da occhi indiscreti, ad un bar, e io gli chiesi se lui era disponibile a darci una mano intervenendo personalmente in una certa abitazione dopo aver fatto saltare la rete telefonica. Lui mi diede del pazzo, dice: lei è pazzo, lei mi vuol far perdere il posto di lavoro. Beh, certo, cose non era una persona che già non aveva cognizione di rischi, uno che diventa amante della moglie di un mafioso. A quel punto ama le situazioni rischiose. È simpatica la risposta. Dissi: se questa è la sua risposta, noi non ci siamo mai visti. E mentre gli stavo stringendo la mano, gli dissi: comunque, congratulazioni, una gran bella. Scusa, non si è sentita la parola, ha detto congratulazioni, una gran... Dissi: congratulazioni, una gran bella donna. Lui si riaccomodò, capì il messaggio e mi disse: cosa devo fare? Beh, però un messaggio, mi consenta comandante, un messaggio semi-mafioso, le ha detto: o ci metti la microspia o ti sputtaniamo che sei l'amante di una moglie di un mafioso e quindi sei un uomo morto. Questa era la sintesi. D'altra parte, per combattere la mafia si diventa anche un po' mafiosi, non si può fare diversamente. Allora fermiamoci soltanto un istante, Angelo, resti con noi perché è troppo interessante il suo racconto, visto che lei ci ha chiamato e l'abbiamo arpionata, non la molleremo così facilmente. A tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Amo ne parla, dimmi chi che sai, non ti succede niente. E te ne puoi andare a casa. Faccio niente io. Io capisco che non intendo di quanto sia. Ma come mi incapazza? Come puttosa sta cosa c'è in otole? Ma qua è che mi ha puttosa? È un'intetta. Allora, e tu? Tu a me, ma povera... Impossibile comprendere un film di Cipri Maresco senza sottotitoli. Gli autori che in realtà furono realmente concretamente censurati, gli unici che veramente hanno avuto una censura violentissima, perché cosa accade, Sansonna? Questo film era profondamente blasfemo, c'era una figura di Angelo che veniva sodomizzato da sicari mafiosi, e questo probabilmente... Angelo era una persona che faceva la parte dell'angelo in una rappresentazione sacra. Certo, cioè, poi il mafioso addirittura, siccome un balordo... Ciò che realmente rischiavano gli angeli messaggeri a Sodoma e Gomorra era proprio che i sodomiti impazziti si facessero gli angeli. Però lì c'era molto piacere, invece qui insomma, è inflitto come pena. Uno delle figure di Cipri Maresco, poi nel film in Totò, che viste due volte, poi ruba una collanina messa dal boss mafioso e quindi viene inserito nell'edicola sacra come santino dal boss mafioso stesso. Quindi c'era tutto un discorso intorno al sacro, e questo deve essere probabilmente l'audio che il nostro amico ha sentito. Angelo, abbiamo fatto sentire proprio un pezzo di Cipri Maresco, perché mi immagino che le vostre prime intercettazioni vi dessero qualcosa di simile a quello che abbiamo sentito. Abbastanza, sì. E tra l'altro con il dialetto corleonese che sta al palermitano come l'italiano sta al latino, insomma, meno. Quindi un dialetto difficilissimo. Ci continua la sua storia, però, perché noi l'abbiamo interrotta, ma abbiamo una gran curiosità. Allora, riassumo per chi si fosse messo in questo momento in azione. A un certo punto, il salto di qualità. Il nostro amico comandante della compagnia dei carabinieri di Corleone, dopo aver per mesi fotografato, studiato e collazionato le foto di ciò che accadeva nella piazza di Corleone, c'è il salto di qualità. Con Falcone iniziano le intercettazioni ambientali, quindi hanno l'audio dei... possiamo avere l'audio dei mafiosi. Devono mettere una microspia in un apparecchio telefonico, perché allora non c'erano, erano i sistemi erano rispetto oggi abbastanza arcaici. Trovano un installatore dell'allora SIP che si faceva la moglie di un mafioso, sì. Lo convoca e dice: mi vai a mettere la microspia? Lui dice: ma che sei matto? Sì. Lui dice: ah beh, non lo vuoi mettere, complimenti per la tua donna. E questo capisce l'antifona. Io volevo chiedere solo al nostro amico: ma in che pilastro di palazzo sta adesso il tecnico della SIP, no? Volendolo rintracciare, quale, come... Beh, questo faccia parte della riservatezza dell'informazione. Che se ne sa Vediamo se può andare avanti nel racconto, però, Angelo. Sì, Allora, questo niente, signore. Poi devo dire che questo signore, questo tecnico che chiaramente rimase rigorosamente anonimo, diventò una persona di assoluta fiducia, tranne a venirmi una sera a trovare, anzi quasi in piena notte, nel mio alloggio. Era terrorizzato praticamente, mi disse: faccio quello che vuole, faccio tutto quello che lei mi chiede, ma la prego, non mi mandi, non mi faccia fare più un'esperienza del genere, perché non riesco a togliermi più di dosso gli occhi di quelli lì. Si riferiva praticamente ad alcuni parenti di Rina, ecco, non scendo più in sì, certo, dettaglio per non far capire esattamente a quale degli obiettivi ci riferiamo, a quale, cioè, comunque lui aveva il sospetto che qualcuno si fosse accorto che aveva fatto quell'operazione. No, semplicemente soltanto gli sguardi che si era sentito addosso durante quell'intervento tecnico gli avevano cagionato degli incubi, cioè lui continuava praticamente a non dormire la notte perché non riusciva più a togliersi dalla mente lo sguardo, che io posso ben comprendere perché erano gli stessi sguardi che accompagnavano me quando durante qualche perquisizione, dei parenti di Rina e di Bagarella durante uno di questi interventi. Cioè degli sguardi che riescono a far capire l'abisso in cui si può sprofondare, ci si mette contro la legge non scritta. Sì, sì, esatto, esatto. Tant'è vero che dopo quel primo intervento ricorremmo ad un escamotage diverso, insomma, in modo tale da non sovraesporre questo poveraccio. Comunque riusciste a creare la prima rete di intercettazioni fisiche mettendo nelle case sospettate questi microspie? Assolutamente, che sono durate anche per anni, perché secondo poi la logica di Falcone, queste cosa che io poi scoprì dopo, perché avevamo anche dei problemi di tipo processuale proprio, questo strumento assolutamente inedito per l'epoca, appunto tale che per esempio si utilizzavano anche degli accorgimenti negli atti, in modo tale che nessuno oltre me e il GIP e Falcone si sapesse, al contrario di quello che accade oggi, che venivano utilizzate delle microspie. E come si giustificava il testo che avete raccolto? Che fonte attribuivate? Sostanzialmente l'obiettivo era un obiettivo, secondo l'intenzione di Giovanni Falcone, soprattutto di tipo informativo. Cioè l'obiettivo era arrivare. I problemi sorsero quando poi invece da quelle intercettazioni ambientali cominciarono ad uscire anche fuori degli elementi di prova fondamentali ai fini associativi. Quindi dovevano diventare loro stesse elemento di prova, non poteva più essere un'attività investigativa soltanto. Quindi non poteva essere più un'attività investigativa pura, seppur ovviamente autorizzata da un GIP, già da un giudice per indagini preliminari e con richiesta di un pubblico ministero del calibro di Giovanni Falcone. No, sto pensando oggi che i testi e le intercettazioni escono nei giornali, in televisione e radio, ancora prima della chiusura dell'istruttoria. Allora c'era invece una sorta di blindatura totale, nemmeno si poteva dire che si intercettava. Sì. No, assolutamente. Quindi, ma lei è mai stato fisicamente proprio all'ascolto? Come funzionava? Cioè, molto guardi, tempo. Io in quel periodo ricordo che nel giro di più o meno di 24 ore, in maniera estremamente artigianale, mi fece autorizzare dalla procura, realizzai una piccola sala di intercettazioni attigua al mio ufficio, che anche perché era troppo grande per i miei gusti, il mio ufficio, una piccola sala di intercettazioni con un falegname, proprio veramente in maniera molto artigianale. Questo stesso tecnico mi portò le linee e niente, ci facemmo dare delle apparecchiature, il tutto si svolgeva lì in maniera estremamente riservata, il riascolto fatto per trascrivere e capire meglio il testo veniva effettuato nottetempo nel mio alloggio di servizio insieme a due miei appuntati con l'equalizzatore dell'impianto stereo, perché all'epoca veramente i segnali tra l'altro erano drammatici, cioè Angelo, non avevamo le tecnologie moderne. Io le sono molto grato per questa testimonianza diretta e concreta che ci ha data. Noi eravamo partiti, Giuseppe Sanzon, a raccontare come il cinema e la fiction raccontava la mafia, e ci siamo casualmente incappati in un signore che si è creata la sua cabina di regia personale. In realtà il film quotidiano sulla mafia fatto di immagini e di audio se lo faceva da solo. Quello che mi colpisce è proprio la dimensione orrorifica dell'icona della nuova mafia, dagli uomini regali, da Marlon Brando, il fascino regale, alla dimensione horror, quella terribile dei volti di questi nuovi mafiosi. Grazie Giuseppe Sansonna, grazie Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, ci sentiamo domani. Melog 2.0. Alors tous deux on est parti dans tourbillon la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.